Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, abbiamo letto qualche giorno fa di polemiche su un uso piuttosto disinvolto da parte del Comune di Roma della lingua inglese. Vi ricorderete anche le altre polemiche suscitate dalla decisione del Politecnico di Milano, decisione sulla quale si dovrà pronunciare niente meno che la Corte Costituzionale, di tenere i propri corsi di laurea specialistiche tutti in inglese. Insomma, l'inglese dilaga. E dell'italiano cosa ne faremo? Ci sono coloro che si lamentano naturalmente di questo andazzo e che vogliono difendere a tutti i costi la nostra lingua. Una lingua che è capace di incantare molti stranieri, per esempio quella di cui vi parlo oggi, cioè una scrittrice di origine bengalese che ha scritto per anni in inglese e che poi si è innamorata e convertita appunto all'italiano. Si chiama Jhumpa Lahiri, il libro che ha pubblicato è In altre parole, pubblicato da Guanda, 154 pagine, 14 euro, un libro scritto tutto in italiano e quindi che non ha traduzione, perché in questo volume troviamo riordinati alcuni scritti nati appunto nella nostra lingua, scritti nei quali la scrittrice spiega il rapporto con l'italiano, il fascino che ha subito da parte della nostra lingua, le difficoltà ad affrontarla e il trauma di essere ormai programmata, per così dire, in tre lingue, quella nativa, quella ufficiale e quella di adozione, il bengalese, l'inglese e l'italiano. Quando la Lahiri arriva in Italia per la prima volta a Firenze, nel classico viaggio nelle bellezze toscane, l'italiano la colpisce non meno dei monumenti, tanto che il suo rapporto col nostro paese non è soltanto visuale, legato appunto all'arte, ma diventa anche un rapporto, come lei scrive, uditivo. E scrive: mi rendo conto di un rumore che mi piace, delle conversazioni, delle frasi, delle parole che sento ovunque vada. E da questa scoperta nasce un'infatuazione che diventerà una devozione e perfino quasi un'ossessione, che adesso ci facciamo spiegare qui dall'autrice. Buonasera a Jhumpa Lahiri. Buonasera. Jhumpa Lahiri, lei spiega nel suo libro che la passione per la nostra lingua, per l'italiano, le scoppiò in occasione del primo, mi pare, viaggio nel nostro paese e decise allora che con questa lingua doveva avere una relazione. Adesso la relazione si è fatta una relazione stabile, anzi da infatuazione, lei scrive, è diventata una devozione, un'ossessione. Ecco, come spiega questa evoluzione della sua passione per l'italiano? Non direi che, no, purtroppo non sarà mai un rapporto stabile, ma il fascino è proprio questo, nel senso resta un amore, un rapporto molto intenso, ma senza possesso, per cui resta una scoperta continua e un'apertura per sempre. Questo nuovo percorso. Lei scrive nel libro di essersi abituata a un esilio linguistico e poi parla di un triangolo tra la sua lingua madre, che è il bengalese, la sua lingua matrigna, che è l'inglese, e l'italiano, appunto. Ecco, l'italiano che cosa rappresenta in questo triangolo? L'italiano rappresenta soprattutto una scelta, una lingua che io scelgo per me stessa, con cui ho un rapporto voluto, ricercato, e una lingua grazie alla quale mi sento libera, perché non è una lingua necessaria, non è la lingua della mia famiglia, neanche della mia educazione. Ormai è diventato anche un luogo, un paese, una cultura, ma è iniziato così, come una lingua mia, anche se ovviamente non appartengo all'italiano, non ci appartengo, però è una scelta. E quali sono le difficoltà principali che ha trovato nell'impossessarsi di questa lingua? A un certo punto, per esempio, in un capitolo parla dell'imperfetto, le difficoltà di capire quando usare l'imperfetto. Ci sono mille cose che per me restano, no? Muri proprio, le preposizioni per me sono sempre, mi confondono quasi sempre, poi con l'imperfetto, sì, pian piano diventa meno, no? Una lingua con, cioè una certa, una questione di dimestichezza. Ormai, no, dopo quasi 3 anni a Roma, mi sento più o meno a mio agio, però resta un cammino disagevole, soprattutto come scrittrice, perché quando scrivo sono completamente sola, come se fossi nel mezzo dell'oceano, e io inizio questo libro proprio con una metafora del genere, e mi trovo sola. A proposito di metafore, lei ne usa una molto bella, cioè dice che l'imparare l'italiano per lei è stato come il vivere e il camminare a Venezia, dove si sale e si scende sui ponti e in mezzo si è sospesi. Ecco, che Sì. cosa rappresenta questa immagine di Venezia? Allora, mi è venuta in mente questa metafora, ovviamente ero a Venezia un paio d'anni fa e avevo già iniziato, a prendere gli appunti che, sono diventati questo libro, e sono rimasta molto colpita di questo processo di dover ripetutamente attraversare un ponte, sotto c'è l'acqua. Un elemento, diciamo, pericoloso, ma nel mio caso è un po' il contrario, perché io vorrei in questo momento evitare l'inglese, che per me resta l'elemento più sicuro. Sono più al sicuro in inglese, inutile dirlo. In questo suo viaggio continuo c'è comunque un muro, un confine che lei dice non si riuscirà mai a varcare, cioè il suo aspetto fisico. Questa è un'osservazione molto malinconica per gli italiani, per noi italiani nei suoi confronti. Sì, questo mi succede abbastanza spesso, basta dire mi chiamo Giumpa in italiano e una persona mi risponde in inglese, cioè devo affrontare questo muro, fa effetto quando mi trovo con mio marito, per esempio, che non è italiano neanche lui, ma si chiama Alberto. E per lui basta dire mi chiamo Alberto e tutti pensano, no? Subito che lui sia italiano, e ormai fa ridere nella nostra, no? I nostri figli trovano questa cosa abbastanza divertente. Ma è interessante perché fa capire un po' l'atteggiamento non di tutti, ma per alcuni la definizione di un italiano secondo me resta un po' stretta, un po' limitata, ma secondo me il paese cambierà, è già cambiata. Dopo anni di permanenza in Italia, le piace di più l'italiano o l'Italia? Ma ormai sono la stessa cosa, cioè la lingua è la cultura, la lingua è il paese. Ovviamente io ho un rapporto particolare con la lingua, per cui c'è un rapporto separate con la lingua, ma grazie alla lingua, che è la chiave principale, diciamo, per entrare in un nuovo paese, per incontrare una nuova gente, per avere una vera connessione con un nuovo paese. C'è un processo, la lingua mi ha dato questa apertura profonda nella mia vita e mi ha cambiato proprio la vita, la lingua italiana. Ormai non c'è una, non posso distinguere tra la lingua e il resto dell'esperienza. Bene, quindi le auguriamo successo nella prosecuzione di questa esperienza e complimenti per la lingua. Grazie a Giumpa Lahiri, autrice di In altre parole. Buona serata. Buonasera, grazie a voi. E a proposito di italiani, vi segnalo tre libri che potranno essere utili anche a Giumpa Lahiri. Il primo è di Giuseppe Antonelli, storico della lingua, si intitola Comunque anche Leopardi diceva le parolacce, l'italiano come non ve l'hanno mai raccontato. È pubblicato da Mondadori, 180 pagine, 12 euro. Qui si parte dalla lontana scoperta che sì, anche Leopardi scriveva, quando occorreva, in modo scurrile. Una dimostrazione di quella che Antonelli chiama la quadrimensionalità della lingua, che cambia nel tempo, nello spazio, nella società e secondo i diversi tipi di uso dell'argomento, del contesto, dell'interlocutore, dell'effetto che si vuole ottenere. Ed è sempre stato così, sempre, in tutte le lingue vive. sottolinea l'autore, quindi no a voler seppellire la propria lingua. L'autore vuole infatti qua dimostrare come non sia fatalmente vero che l'italiano, come molti si lamentano, si sta corrompendo, leggo dal suo libro, contaminato dall'inglese e minacciato da internet e dai messaggini. E scopriremo che perfino il congiuntivo non se la passa poi così male, come dimostra questo brano di una canzone famosissima. Un altro studioso dell'italiano è Gianluigi Beccaria, che ha pubblicato L'italiano in 100 parole, pubblicato da Rizzoli, 496 pagine, 18 euro. Le 100 parole scelte da Beccaria diventano un'antologia personale di parole indici, una storia della lingua italiana parziale ma didatticamente utile, e sono quindi parole testimonio, parole bandiera in senso culturale, parole chiave in senso testuale, così le definisce l'autore. Si parte dunque dalla prima testimonianza scritta in volgare nella lingua italiana, Sauco che le terre, un'espressione del 960, per arrivare poi ad alcuni lemmi molto più attuali che hanno segnato il formarsi della lingua. Beccaria è forse più preoccupato di Antonelli, ricorda che sì, in effetti oggi tutti parliamo l'italiano, a differenza di pochi decenni fa quando si parlava piuttosto il dialetto, ma nota tuttavia che un corrompimento c'è stato, che si sta formando un nuovo italiano tecnologico, un italiano comunicativo e non più espressivo, e quindi, conclude l'autore, si sta sviluppando un nuovo dibattito, molte nuove discussioni che si stanno incentrando, conclude, di più sui problemi delle nuove generazioni, sul decadimento e impoverimento delle loro capacità comunicative ed espressive. Infine, di Claudio Nutrito, giornalista, docente e manager, segnalo Quant'altro, parole di salvataggio per parlare senza dire niente, pubblicato da 900 Editore, 138 pagine, 9,90 euro. Questo è un altro dizionario, una serie di parole di appunto salvataggio, ossia parole utili nel caso, spiega, ci si trovi a corto di idee ed argomento. Non si tratta di parole vuote, prive di senso, aggiunge l'autore. Tutt'altro, sono utilizzabili anche nel corso di una discussione approfondita. Sono parole passepartout, il loro significato è quanto mai elastico. Parole di salvataggio, quindi parole strappapplausi nel talk show. Insomma, sono espressioni gergali che spesso celano il vuoto del pensiero, e troviamo qui parole da amici a vuoto legislativo con alcuni cataloghi di salvataggio, un catalogo dei sarchiaponi, cioè delle parole complicate che fa fine esibire, un catalogo degli aggettivi socialmente utili, cataloghi dalla parte, cioè quando ci si mette anche nel linguaggio dalla parte di qualcuno, parole business dietro, ossia tutte le espressioni complottarde che denunciano il fatto che dietro ci sia sempre qualche cosa, e infine il catalogo italiano sui difetti e le virtù rare del nostro popolo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi parlo adesso di due libri che hanno a protagonista la stessa città e la stessa generazione, colta però in due fasi temporali diverse. La città è Milano, la generazione è quella dei cosiddetti quarantenni in carriera. E allora cominciamo cronologicamente dal libro di Erika Rosio e Giorgio Maimone, L'amour gourmet, pubblicato da Mondadori, 192 pagine, 15,90 euro. Qui siamo negli anni Ottanta. Milano si sta riprendendo dopo gli anni bui del terrorismo, nasce un nuovo gruppo sociale, i famosi yuppies con i loro riti, le loro trasmissioni televisive, i loro luoghi dedicati e soprattutto i loro ristoranti, che diventano già da allora degli status symbol e dei simboli di appartenenza. E sette ristoranti con i relativi chef dell'epoca sono il palcoscenico sul quale va in scena la trama del libro, scandita da storie d'amore condite alla fine da alcune ricette simbolo di quei luoghi e di quegli chef, alcuni gloriosamente sulla breccia. Sono storie captate al ristorante di giovani protagonisti del mondo della TV, della comunicazione, che sta cambiando pelle, nel segno per esempio di Drive-In, il simbolo delle TV commerciali sui quali impera un nuovo imprenditore, un certo Silvio Berlusconi, del quale nel libro si dice a un certo punto un personaggio: tra un po' tutto il mondo intellettuale penderà da quelle bande, ha pescato bene il Berlusconi, è un furbo di tre cotte, metà della sinistra extraparlamentare milanese lavora per il Biscione, osserva appunto la voce narrante. E sentiamo allora dal libro l'inizio con una descrizione di quella che sarebbe diventata in breve la Milano da bere, preceduta nel libro da una citazione di questa famosa canzone di Lucio Dalla. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Milano è una città di carta, costruita su fragili equilibri, che basta un soffio e potrebbe crollare. Milano è un ibrido tra qualcosa che non c'è più e qualcosa che forse non arriverà. Sospesa lassù, tra miserie e splendori, intangibile al tempo, eppure piegata dai tempi. Resteremo per sempre a piangere sui navigli. Continueremo a progettare skyline newyorkesi. Milano, questa enorme virgola appoggiata sul piano padano che non raccorda l'Italia all'Europa, ma che neppure la stacca. La mia città è nervosa come un cavallo brado. Le si sentono tirare i muscoli appena sotto il pelo fulvo. È pronta a scattare, a illudere ancora che un nuovo risorgimento sia pronto a partire. Lo dicono gli stilisti, lo dicono gli architetti, i fotografi e i designer, lo dicono i nuovi chef. Un'epoca è finita, un'altra se ne sta aprendo. In parte sono cambiati gli attori, i vecchi protagonisti, quelli delle strade in fiamme, dei cortei studenteschi, delle occupazioni alle università, sono andati quasi tutti in campagna. Qualcuno è partito per l'India, qualcuno è morto per droga, qualcuno è in villeggiatura all'Asinara, qualcuno è rimasto su quelle stesse strade che percorreva con orgogliosa sicurezza. Una bella fetta di questi guerrieri della strada ha poi rapidamente fiutato il vento e cambiato casacca. Li vedi arruolati a schiera tra le nuove leve di Palazzo Mezzanotte, tra i manager rampanti, tra i co-oper, gli art director e i PR che danno lustro alla città. La stessa generazione, un po' più preoccupata e ammaccata forse, troviamo nel libro di Daniele Cobianchi, La sindrome di Hugh Grant, pubblicato da Mondadori, 178 pagine, 15 euro. Un altro quarantenne che lavora ancora a Milano nel marketing, alle prese con i problemi generazionali, una situazione generale che non è più quella brillante e luccicante di 30 anni prima. Il gusto per la vita facile non è certo tramontato, ma adesso il clima è sicuramente più livido. I personaggi sono molto più complicati, complessati. Spesso, per esempio, ce n'è uno che per uscire da quest'ansia continua non fa altro che correre forsennatamente per i parchi milanesi. Ma l'incidente professionale naturalmente è dietro l'angolo, e allora una fuga in moto del protagonista sarà l'occasione non tanto per riflettere, ma per incappare in un incontro proprio appunto con l'attore Hugh Grant, che dà il titolo al libro, che in poche battute riassume al protagonista la sua filosofia di vita. Io sono a modern Peter Pan because mondo vuole i simboli di freedom, libertà, gli dice l'attore in un anglo italiano che abbiamo cominciato a conoscere. E a proposito di Milano, è ancora in scena al Piccolo Teatro Lehman Trilogy, che è uno spettacolo con la regia di Luca Ronconi, tratto da un poema di Stefano Massini che vi avevo fatto incontrare in questa trasmissione qualche mese fa. Adesso di Massini, Einaudi pubblica un testo teatrale sempre di attinenza con l'economia che si intitola La 7 minuti, consiglio di fabbrica, 74 pagine, 10 euro. Questo è un testo che ci viene spiegato dall'autore, liberamente ispirato a una storia vera, ed è il confronto tra 11 donne che compongono il consiglio di fabbrica di un'azienda di cui si teme la chiusura. Dopo un lungo colloquio con una sola rappresentante del consiglio, viene fuori la proposta del management, che le donne chiamano le cravatte, e che appare sorprendentemente moderata. Ciascun operaio manterrà il proprio posto di lavoro, ma dovrà semplicemente rinunciare a 7 dei 15 minuti di intervallo ai quali hanno diritto. Le operaie tirano un respiro di sollievo, ben contente di un prezzo che appare loro tutt'altro che esagerato, ma ben presto i dubbi cominceranno a manifestarsi, soprattutto per le riflessioni che fa proprio la rappresentante di fabbrica che era stata ricevuta dai manager, dalle cravatte, e nasce così un dibattito sul concetto stesso di etica del lavoro. E anche una riflessione sull'esigenza di dare un peso nella propria vita alle idee e agli ideali, non soltanto al tornaconto immediato, dice infatti una delle 11 protagoniste alla operaia che semina il dubbio sulla proposta del management. Credi che tutto il mondo sia disposto come te a rincorrere le idee? Come dire che rincorrere le idee fa male. Quindi un tema impegnativo, capace però nel testo di appassionare, di sorprendere in un crescendo di tensione che sfocerà nel sorprendente finale. Sentiamo Blanche, appunto la protagonista, la portavoce del consiglio di fabbrica che guiderà l'opposizione alla proposta dell'azienda. Quello che sto cercando di dirvi è che 7 minuti non saranno niente, ma sono nostri, mi spiego. Ognuna di noi ha in casa, sopra i mobili, qualcosa che di per sé stesso non vale niente, eppure è nostro. Sta con noi, lo abbiamo scelto. E al di là di questo, è in casa nostra, sta lì dentro, dietro la nostra porta. Ditemi perché all'improvviso, senza volerlo, senza una ragione, dobbiamo essere obbligate a buttarlo fuori. C'è un senso? Perché noi non possiamo togliere niente alle cravatte, non possiamo decidere nulla dei loro soprammobili, ma loro sì? Cosa c'è di diverso? Solo perché stanno un gradino sopra? Chi sarebbero loro senza le mie mani sui telai, senza quelle di Odette o di Lorraine? E sul ruolo che Milano ha avuto negli ultimi anni nel nostro paese, quando, ricordiamo, veniva considerata la capitale morale, si sofferma un libro di un italianista, Giovanna Rosa. Il libro si intitola Il mito della capitale morale, identità, speranza e contraddizione della Milano moderna, è pubblicato da Rizzoli, 320 pagine, 13 euro. Qui l'autrice riprende una definizione di cui Milano è andata fiera per molti anni e che la presente amministrazione comunale ha ripreso, quella appunto di capitale morale, una definizione legata alla capacità della città di innovare e di integrare, che trovano espressione nell'etica del lavoro produttivo, che è stata la caratteristica fondamentale di Milano. Allora, giunti alla vigilia dell'Expo, il libro della Rosa parte dall'esposizione del 1881. Quella non fu un'esposizione universale, ma fu molto importante perché lanciò a livello nazionale l'immagine e il carattere indissolubilmente legata a Milano del lavoro, dell'impresa, dell'innovazione. Ne nasceva una autentica mitologia, secondo l'autrice, che si articolava nella struttura poliformica dell'economia, che alimenta il dinamismo ininterrotto di produzione e consumo, nell'ipotesi strategica di un municipalismo interclassista che aspira a smorzare i conflitti tra i ceti, nei moti accelerati di modernità che nel campo aperto delle idee della comunicazione accendono il confronto tra le elite intellettuali e l'opinione pubblica. Un mito che ha fatto breccia anche all'estero, perché per esempio un grandissimo storico come Fernand Braudel, ancora nel 1980, scriveva che la città più importante d'Italia da tutti i punti di vista è Milano, metropoli europea per definizione. Se dovessimo essere ragionevoli, Milano dovrebbe essere la capitale del vostro paese. E quindi si parte nel 1881 fino a mettere in luce le prime crepe in questa solida immagine messa in luce nella letteratura da Bontempelli, da Gadda e da Testori. Molte opere di Gadda, per esempio, scrive l'autrice, nascono proprio dalla fedeltà rancorosa a una cultura che, eletto il buonsenso di alacrità intraprendente e di pacatezza sennata, ha continuato a coniugare i richiami all'ordine ragionevole del pensiero illuministico positivista con i rovelli inquieti del modernismo. E un richiamo al periodo in cui Milano fu davvero capitale dell'Italia, dell'Italia napoleonica, è il libro di Luigi Mantovani, che fu un prete vissuto un po' in disparte a Milano tra il 1755 e il 1837, il quale però si dedicò alla scrittura di un diario che tenne per moltissimi anni con grande metodo e precisione. E adesso ne viene pubblicato un estratto, perché l'intero corpus del diario sono oltre 2000 pagine, dalla Vita Felice, si intitola Luigi Mantovani quando Milano era capitale, cronache milanesi dal 1796 al 1824, dal diario politico ecclesiastico, questa appunto è l'opera che aveva scritta il Mantovani. L'opera è curata da Matteo Noia, 438 pagine, 19,50 euro, ed è ricca di spunti e di cronache politiche, non solo. Per esempio, ho appreso, leggendo questo libro, che già 200 anni fa, nella primavera del 1815, il prete fotografa un fenomeno del quale poi non stancheremo di discutere ai giorni nostri, e scrive: a mia ricordanza non so dirvi veduta altre volte stagione sì anticipata, perché il termometro stava già a 15 gradi oltre sopra lo zero. Quindi il prete ci ricorda che i cambiamenti climatici non sono certo una nostra invenzione. Ma interessanti sono tanti altri spunti. Il diario è ricco di tante cronache, l'autore compare pochissimo e invece alimenta questo diario ricorrendo alla stampa contemporanea, alle amicizie, a qualche pettegolezzo, e non nasconde la nostalgia per il governo che definisce dolce, saggio e paterno degli austriaci. Ma, come nota il curatore, non si fa mai prendere dalla faziosità contro i francesi e anzi alla fine quasi rimprovera gli austriaci di essersi fatti anche loro influenzare troppo da alcuni ideali che aveva portato in Italia Napoleone. E a questo punto il confettino. Oggi vi parlo di un confettino indiretto, perché è un libro per gli adulti per renderli capaci di indirizzare alla lettura i ragazzi. Ne è autrice Lucia Rizzi, si intitola Leggi con me, da 1 a 15 anni educare con fiabe, storie e libri, pubblicato da Rizzoli, 236 pagine, 17 euro. Questo è un libro che servirà agli adulti non solo perché insegnare a leggere ai ragazzi è importante, ma perché gli adulti dai libri e dalle storie ricaveranno, credetemi e abbiate fiducia in me, uno strumento eccezionale per rendere più serena e costruttiva la vostra vita personale e familiare. E qui troviamo vari capitoli che permettono appunto di affrontare le strategie per indurre alla lettura i bambini fino ai 3 anni, poi fino ai 6, poi fino ai 10 e poi quelli più grandicelli. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.